Madman. Escape from heart. 2010. BK al beat. Io voglio andare lontano da tutto questo errore, come Plutone dal sole, lontano dal mio cuore. La testa altrove mentre passano le ore, attimi di prigione, dolore, rallentatore. Io voglio andare lontano da tutto questo errore, come Plutone dal sole, lontano dal mio cuore. La testa altrove mentre passano le ore, attimi di prigione, dolore, rallentatore. Tutto quello in cui ho fiducia mi tradisce o mi delude. Ciò che amo mi ferisce, mi brucia, poi mi decapita. Ogni pensiero è vano dentro il nero di una nube. Mi sento come un gabbiano nel cielo di una discarica. Alterno incubi misti a sogni troppo tristi, perciò produco dischi rari come l'eclissi, imponendo l'alchimia alle 3P della follia che incontro sulla mia via. Pare pressione e pazzia, ma questa depressione mi incute sbalzi d'umore. Si è presa prima l'amore, dopo il mio migliore amico. L'ansia mi infesta il cuore come un cazzo di tumore. Si nutre delle mie ore, vuole il calore residuo. Aspiro veleno finché i problemi si dimezzano, scrivendo il mio vangelo per cui tutto è lo sfacelo. Sa per questo reggo il cielo finché i gomiti si spezzano. E do perle di oro nero a dei porci che non le apprezzano. Io voglio andare lontano da tutto questo errore, come Plutone dal sole, lontano dal mio cuore. La testa altrove mentre passano le ore, attimi di prigione, dolore, rallentatore. Io voglio andare lontano da tutto questo errore, come Plutone dal sole, lontano dal mio cuore. La testa altrove mentre passano le ore, attimi di prigione, dolore, rallentatore. Nato il 25-7, rappo 24-7. Adesso sto quasi a 21, baby, ma non è 3-7. Ho 7 piante a 7 punte, ma comunque sento il gelo, perché sto al settimo piano, mica al settimo cielo. Finirò al settimo cerchio dentro il secondo girone. Morirò al settimo giro come Senna da campione. 7 vizi capitali, 10 peccati mortali sul groppone, tranne il furto, la menzogna e l'uccisione. Madman, se rapper lo sento, no vi brillano. La M e la si riaccendono quando lo sillabo. La D e la N, stelle che splendono ma non brillano, come dolore e noia su di un pendolo che oscillano. Ho girato in luoghi vuoti tra supposti miscredenti, dopo 20 anni buoni tra illusioni e pentimenti. Dopo 5 traslochi in 4 posti differenti, io non ho più scatoloni per metterci sentimenti. Io voglio andare lontano da tutto questo errore, come Plutone dal sole, lontano dal mio cuore. La testa altrove mentre passano le ore, attimi di prigione, dolore, rallentatore. Io voglio andare lontano da tutto questo errore, come Plutone dal sole, lontano dal mio cuore. La testa altrove mentre passano le ore, attimi di prigione, dolore, rallentatore.